RadioTube Social Village di Marta Cagnola. 16 e quasi 6 minuti, manca un paio di secondi. Ecco, adesso sono le 16 e 6 minuti a Radio 24, il sole 24 ore, 2 ore di diretta insieme per RadioTube Social Village, RadioTube Social Network. No, perché siccome Vincenzo Miglietta nel giornale radio li dice tutti per bene, non mi posso sbagliare proprio io che sono la conduttrice. Oh, 349-238-6666 è sempre il numero per i vostri SMS e WhatsApp, e poi per tenervi in contatto con me ci sono i miei due account di Twitter e di Instagram, chiocciola Marta Cagnola. Cosa succede nella prima ora? Beh, come sempre nella prima ora noi parliamo molto di musica, avremo subito un collegamento con un gruppo che io amo in maniera particolare, parleremo tanto ancora di musica perché ci sarà il nostro spazio con le votazioni di I Love My Radio, ma anche perché parleremo di un'iniziativa che riguarda anche il calcio, e poi vi spiegheremo di più. Si parlerà anche di comicità per un'altra iniziativa che partirà proprio dopo il nostro RadioTube, e mi faceva piacere segnalarla perché anche qui c'è uno scopo benefico e quindi fa sempre bene anche parlarne. Non parliamo di serie TV questa settimana? No, non parliamo di serie TV questa settimana, ma comunque sul sito di Radio 24, sull'app di Radio 24, ma anche sulle principali piattaforme di streaming c'è il nostro podcast Ancora Una Poi Smetto. Allora, abbiamo detto tutto? Possiamo cominciare a parlare di musica? Io partirei con questo pezzo che a me è piaciuto in modo particolare. Poi fate voi, ma sentite qua. Questo pezzo fa parte del nuovo disco Disamore, un disco di un gruppo che seguiamo sempre con passione a RadioTube, i Perturbazione. Bentornato da noi a Tommaso Cerasuolo. Ciao Tommaso. Ciao Marta, grazie per l'ospitalità. Partiamo da questa Io mi domando se eravamo noi, un pezzo che ha un sapore un po' anni 70, ma anche qualche citazione classica, sì, sì, che non possiamo non cogliere. Sì, ovviamente viene subito in mente White Shade of Pale dei Procolarum e quel tipo di cosa lì. Bisogna dire che i Procolarum poi la rubarono a Bach, quindi A quello mi riferivo, cioè un omaggio a un giro che si è inventato, diciamo, lo importante. Sì, sì, ma appunto la musica, insomma, sì, ovviamente si cammina sulle orme, è veramente come i piedi piccolini che stanno in orme grandi nella sabbia, secondo me. Con il gusto però tuo, contemporaneo, quello che vuoi raccontare delle storie attorno a te. Nel caso di Disamore sono storie di quella che noi abbiamo chiamato, diciamo, prendendo la starnone, soprattutto Rossano, che è il coautore dei testi insieme a me, quella che potremmo chiamare un'eccezionalità di massa, cioè il fatto che specchiandoci molto nelle immagini altrui, in qualche modo si riverbera una sorta di solitudine tutta speciale e invece molto simile agli altri. Ecco, c'è questa cosa. La cosa bella delle canzoni, secondo me, è che al contrario delle immagini che, come dire, ci bombardano, lasciano all'ascoltatore una parte da completare che fa sì che invece di solitudine tu senta, diciamo, empatia. E questa, secondo me, è una cosa magica della musica. È come la radio quando non si deve accompagnare per forza le immagini, lo diceva Finardi, ti lascia molto posto per immaginare la storia di questi due protagonisti del disco, che sono poi descrivono la loro storia, un po' loro, un po' un narratore, a lungo 23 canzoni, che sembrano tante ma si alternano pezzi lunghi con pezzi brevissimi, istantanee, la storia del loro incontro, della loro convivenza e di qualcosa che va storto, non sanno controllare, ma alla fine vogliono consegnare come una sorta di messaggio di verità. Noi nel costruire questo disco alla fine abbiamo cercato proprio di immaginare questa casa. Sono due giovani urbanizzati, suppongo tra i 30 e i 35, non sappiamo il loro nome, cioè nel senso che non l'abbiamo voluto comunicare perché appunto lo può mettere poi l'ascoltatore, però sappiamo che libri hanno sul comodino, che canzoni ascoltano, che messaggi si lasciano, c'è qualcosa di autobiografico, però non profondamente. Le storie di amori, disamori, ne abbiamo viste tantissime attorno a noi e quando hai in testa una storia, diciamo, hai un'antenna che capta tutte quelle cose e cannibalizza un po' i tuoi affetti, i tuoi conoscenti, tutto quello che puoi, anche la buona letteratura attorno a questa cosa. Torniamo a Io mi domando se eravamo noi, ha anche un video che ha una storia molto particolare, perché? Certo. Allora, il video che è stato girato e diretto da Fabio Capalbo era programmato per il 7 e l'8 marzo e la mattina, l'alba dell'8 marzo, che era la domenica, quando è iniziato il lockdown, noi dovevamo metterci in moto per Milano ed essere come un cameo parte della troupe che sta girando il film del video. Se lo vedete poi vi renderete conto, perché i tre protagonisti stanno girando questa sorta di film che potrebbe essere, non so, ha un sapore da Nouvelle Vague perché hanno una Super 8, non so se sia una 16 mm, una Super 8. Noi dovevamo essere i macchinisti, gli elettricisti. Chiamiamo Fabio sabato sera e gli diciamo: Fabio, è evidente che c'è un problema. Forse riusciamo anche ad arrivare allo studio di posa, ma non è detto che poi ci lasciano tornare indietro. Magari passare settimane in quarantena a Milano, forse è meglio evitarcelo. E quindi lui ha detto: no, tranquilli, lo finiamo di girare noi, nel senso che ci siamo resi conto che era l'inizio di qualcosa di grande e di travolgente, non nel senso buono, purtroppo. E quindi Fabio è stato molto carino, nel senso che ha detto: vabbè, siamo la parte di esterni, l'abbiamo girata, dobbiamo girare l'interno in studio, lo finiamo, ci svegliamo prestissimo e poi partiamo ognuno e torniamo verso le nostre mete, tra cui anche un'altra regione per il direttore della fotografia, che poi è stato in quarantena di fatto da sua figlia per settimane, dai suoi affetti, perché tornava da una regione che era fortemente colpita. Quelle sono le immagini di Milano, l'ultimo giorno prima di adesso, ma timidamente ci si riaffaccia, speriamo con sobrietà, appunto, perché poi quella credo che sia una lunga battaglia quella che stiamo combattendo, e quindi questo è il modo in cui cerchiamo di vivere anche noi come musicisti, un po' siamo alla finestra, un po' cerchiamo di fare piccole cose di prossimità preziose che alimentino un po' noi e i nostri vicini con fede. Ecco. I live, chissà quando gli amori potranno tornare a nascere, come scrivete voi, andare a un concerto e sentire qualcosa che si arrende. Lo desideriamo tutti tantissimo. Io ho avuto la fortuna la sfortuna di essere a 20 km dagli altri perturbazioni, che sono a Rivoli, io sono a Torino, ma ho un musicista di prossimità che è Enrico Manera, con cui ho condiviso altri progetti, Noam, eccetera, varie band. È un batterista, ma che suona bene la chitarra, e lo vedo ho un cortile di fronte, quindi facevo una cosa che violava evidentemente il decreto, perché uscivo dal mio palazzo, giravo isolato e salivo 4 piani, mi sedevo su uno sgabello a 2 metri da lui, e allora abbiamo detto: suoniamo sul balcone. Abbiamo iniziato quel sabato, si sono affacciati un po' di persone, e poi i sabati successivi abbiamo continuato, che ci chiedevano di farlo. È stato molto carino, e questo per dire che ci si può inventare delle cose. Credo che si debba immaginare degli eventi che sono molto vicini, cioè tra 10 giorni suoniamo a Milano, non tra 3 mesi, perché non ha nessun senso in questo momento qua provare a essere così. Capisco la difficoltà dei grandi eventi, che è un altro campo da gioco rispetto al nostro. Nel nostro, secondo me, bisogna fare delle cose piccine, una alla volta, e con tanta pazienza, appunto. Sono d'accordo, navighiamo a vista, intanto ascoltiamoci questo Disamore come se guardassimo un film. Grazie a Tommaso Cerasuolo, salutami tutti Perturbazione, speriamo di rivederci tutti insieme in radio come facevamo una volta. Ci arriveremo, ci vuole un po' di culo e un po' di fiducia. Ciao Tommaso, grazie. Grazie Marco, ciao. Radio Tube Social Village. Allora siamo arrivati al nostro momento dedicato a I Love My Radio, l'iniziativa che celebra il sistema radiofonico italiano. 45 canzoni, una per ogni anno dal 75 al 2019, selezionate dai direttori artistici di tutte le radio nazionali. 45 hit degli ultimi 45 anni che i 45 milioni di italiani che seguono la radio possono ascoltare e votare sul sito ilovemyradio.it. La scorsa settimana siamo arrivati fino al 1979, quindi quest'anno ripartiamo con il 1980 così. Da uno blog mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Allora, 1980, Luna, Gianni Togni. Per sapere qualcosa di più torniamo a collegarci con l'autore del blog Suoni nell'Etere, espertissimo di radio e musica leggera, Simone Fattori. Ciao Simone. Eccoci, buon pomeriggio Marta. Allora, 1980, Luna, Gianni Togni. Sì, prima di partire possiamo far finta che in questi 10 minuti il televoto è bloccato, perché così posso dire un'altra delle mie frasi di sogno. Ok, va bene. Televoto. Vabbè. Poi lo riprendiamo tra 10 minuti, quando avremo parlato di poi lo diremo. Perfetto, quindi per ora siamo ridilla. Stop al televoto. Ok, quindi partiamo con il 1980. Radio voto, 1980. 1980, Luna di Gianni Togni, in realtà fino a poco prima di essere incisa doveva chiamarsi Anna, forse non tutti sanno perché. Perché questa canzone in realtà Gianni Togni l'ha copiata, per sua stessa ammissione, da un clochard che viveva nella stazione, nelle stazioni della metropolitana di Milano, quindi cosa attualissima anche vicina a Radio 24. Questo clochard era, aveva in testa queste conversazioni con la sua fidanzata, immaginaria o reale che fosse, non lo sappiamo, che si chiamava Anna, e ripeteva in continuazione nei corridoi della metropolitana queste frasi che Gianni Togni, passando tutti i giorni, si annotava, e praticamente si è trovato il testo già pronto. Ecco perché dice che cammina nella metropolitana di notte. Uno addetto alla manutenzione, oppure uno che ci vive, e uno che ci viveva. E quindi all'ultimo momento, durante la registrazione di questa canzone, si era fatta l'alba, si affacciano alla finestra dello studio, vedono questa luna meravigliosa, decidono che probabilmente Luna sarebbe stato molto meglio come titolo, come metrica c'eravamo, e quindi la canzone cambia all'improvviso nome e diventa il grande successo che è stato, cioè il singolo più venduto del 1980. Passiamo al 1981, che fa così. Sì. Bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. E qui è difficilissimo entrare su questa canzone e parlare sopra Franco Battiato. Centro di gravità permanente, 1981. 1982, qui bisognerebbe chiamare in causa Morgan e Blue Vertigo per capire Battiato, però insomma il discorso fondamentale di questa canzone è che dopo diversi anni di sperimentazione Franco Battiato propone due album a distanza di qualche tempo, nei quali esce dalla sperimentazione fino a un certo punto, perché poi i testi sono molto sperimentali. Dopo l'era del cinghiale bianco esce questo album che si chiama La voce del padrone, dove c'è questo centro di gravità permanente. Allora, innanzitutto La voce del padrone è il primo album italiano a superare 1 milione di copie vendute, alla faccia della sperimentazione, diciamo, perché certo, diventa a questo punto musica popolarissima. Battiato trova la sua sintesi musicale grazie a Giusto Pio, nei testi grazie a questo modo molto particolare di mettere insieme cose altissime e cose un po' più basse, diventa popolarissimo, e questa è la canzone più famosa del 1981 ed è quella che abbiamo scelto per rappresentare questo anno, che hanno scelto per rappresentare questo anno, e mi sembra insomma che lo rappresenti molto bene. Beh, però è difficile adesso perché arriva anche il 1982, e che dire del 1982, un'altra pietra miliare, eccola qua. Vita che dietro un giornale sta cambiando opinioni, e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare. Lei non è una signora, io non sono una signora. Roberta, tu come la vedi? Ah, nemmeno tu sei una signora. Nessuna di noi è una signora, non sono una signora. Loredana, per te 1982, Simone. Io men che meno, e tra l'altro questo album dal quale nel quale era compreso questo Non sono una signora si chiamava Traslocando, e Loredana Bertè in copertina appare vestita da suora. Non è l'unico travestimento della sua carriera, ovviamente, ma ce n'è uno che riguarda proprio questa canzone, che in quell'anno vendette 500.000 di copie, stiamo parlando del singolo, perché oltretutto tra i tanti premi vinti da questa canzone nel 1982 ci fu anche il Festival Bar con questa canzone, e Loredana Bertè vinse il Festival Bar. E come si presentò alla finale dell'Arena di Verona del Festival Bar per cantare questa canzone? Voi direte, e se l'album c'è, cioè la foto vestita da suora, sarà vestita da suora? No! Arrivò vestita da sposa, e quindi me lo ricordo. Un altro dei tanti travestimenti della sua vita. Oltretutto, questo è un disco che ha avuto un grande successo anche in tutta Europa e in Brasile, dove, e qui ho cercato di capire, ma in quel periodo ce n'erano tantissime, non si riesce a capire, è stato anche colonna sonora e sigla di una delle tante telenovelas brasiliane che in quegli anni ogni tanto arrivavano anche in Italia, e in Brasile ce n'erano tantissime. Quindi grande popolarità in quasi tutto il mondo, vittoria del Festival Bar nel 1982 per Loredana Bertè e questa Non sono una signora, scritta da Ivano Fossati, come gran parte tra l'altro delle canzoni di quel suo album Traslocando. Passiamo, un'atmosfera completamente diversa a quella della canzone del 1983. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Francesco De Gregori, La donna cannone. Simone. Giordana Cannone, che ha tra le cose meno conosciute il destino di essere la colonna sonora famosissima di un film misconosciuto. Il film si chiamava Flirt, di Roberto Russo con Monica Vitti. Non credo che molti tra gli ascoltatori ricordino il film, ma ricordano perfettamente questa canzone che ne era la colonna sonora. Poco dopo, qualche anno dopo, si è rifatto entrando nella colonna sonora in una scena memorabile del Grande Cocomero dell'Archibugi. Come nasce la Donna Cannone? Forse una delle canzoni, come dire, meno criptiche di De Gregori, e nasce da un trafiletto nel quale si raccontava della vicenda di questo circo dell'inizio del secolo che aveva chiuso, era stato costretto a chiudere perché la Donna Cannone, che era l'attrazione principale del circo, scappò, se ne andò per inseguire il suo amore, perché le regole del circo le vietavano di avere un amore o comunque insomma di condividere la propria vita con qualcun altro. Quindi lei decise di scegliere l'amore, abbandonò il circo, che fallì il circo, ma lei non si sa che fine ha fatto, perché questa è la grande incognita che c'è intorno a questa canzone, perché chiunque ascoltandola decide qual è alla fine il destino della Donna Cannone, che va via tra gli applausi di questo circo. È una grande storia di rivalsa, di scelte dell'amore, di come dire, liberazione dalle catene di tutti i tipi, quelle fisiche ma soprattutto quelle psicologiche. Una delle canzoni italiane più famose di sempre, direi. Allora abbiamo l'imbarazzo della scelta. Tutte e quattro sono delle canzoni straordinarie, ma cosa c'era nel 1984? Magari una un po' meno bella, una un po' meno nota. Eh no, c'era questa nell'84. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? No, ho aperto solo adesso il microfono perché volevo cantare, ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Perché è uno dei versi più intensi, notte prima degli esami di Antonello Venditti. È durissima questa settimana. Simone, cosa possiamo dire di quest'altro pezzo? Devo dire. Sì. Tra l'altro, notte prima degli esami ha una particolarità, ne ho trattato proprio in questa settimana nel mio blog. Sai che io sono un appassionato di lato B, inteso come quello dei 45 giri, ovviamente. E la curiosità è che questa canzone all'inizio, ovviamente inclusa nell'album Cuore di Venditti, che nel 1984 è stato l'album più venduto, ma come singolo uscì come lato B Ci vorrebbe un amico, canzone famosa ma nel tempo poi non rimasta, diciamo, agli annali come notte prima degli esami. Quindi all'inizio era stata usata come lato B, ma è rimasta così nella storia. Che sono due domande fondamentalmente di questo testo che tutti conosciamo rimangono: chi sono i quattro ragazzi con la chitarra e il pianoforte sulla spalla? Uno è ovviamente Antonello Venditti, che è quello col pianoforte sulla spalla perché è l'unico pianista del gruppo. Gli altri tre sono tre chitarristi, o almeno ai tempi del Folk Studio, il locale al centro di Roma dove questa nidiata di cantautori ha mosso i primi passi, erano dei chitarristi. E c'era Francesco De Gregori tra i quattro amici, e poi altri due che abbiamo perso dal punto di vista musicale, ma che sono stati e sono tuttora dei giornalisti musicali, ovvero Giorgio Locascio ed Ernesto Bassignano. Questi erano i quattro ragazzi. Quindi l'altra domanda, l'altra domanda è la famosa storia delle bombe delle sei. Allora, qui ci sono due correnti di pensiero. La prima, essendo quello il momento ancora più così tra virgolette movimentista di Venditti, fa riferimento, secondo qualcuno, alle bombe del 69 all'altare della patria che non fecero vittime, fecero soltanto danni. Molto più prosaicamente e molto più romanamente, secondo me, io sono per questa seconda chiave di lettura, le bombe delle 6 sono quelle che si vanno a prendere prima di quando si è fatto proprio nottata e all'alba, prima di andare a dormire, si va a fare colazione. E a Roma si usa prendere la bomba con la crema alle 6 prima di andare a dormire se si è fatto nottata. E c'è in quel momento un attimo di così, di dubbio se faranno male o meno queste bombe prima di andare a dormire. Ecco, Venditti ci dice che non fanno male, quindi fate pure, tirate l'alba, fate colazione e poi andate a dormire tranquillamente con una bella bomba alla crema sullo stomaco. Ecco le 5 canzoni di questa settimana. Vi ricordo che potete votare sul sito ilovemyradio.it, ma non tra le 5, perché bisogna votare tra tutte 45. Noi così andiamo di 5 in 5 ogni sabato. Questa settimana 1980 Luna, 1981 Centro di gravità permanente, 1982 Non sono una signora, 1983 La donna cannone, 1984 Notte prima degli esami. Fammi ricordare due siti: ilovemyradio.it, che dove potete votare e anche avere tutti gli aggiornamenti perché stanno per arrivare le grandissime cover, e poi il tuo blog Suoni nell'etere. Simone Fattori, grazie. Di pure la frase che ti piace di più, Simone. Beh sì, bisogna riavviare il radiovoto e quindi via al televoto o radiovoto che sia. Ciao Simone, al prossimo sabato. Ciao, alla prossima, grazie. Radio Tube Social Village. Cantiamo una canzone di stanze, tu dalla cucina, io dalla mia stanza. E mettiamoci del sentimento, lasciala andare, la porterà il vento. Cantiamo una canzone a distanza, perché sento forte la mancanza. E che abbracci le persone care, risuoni in un ospedale. Se pensiamo di essere importanti, ma siamo niente senza gli altri. Una canzone tira sul morale, come luce dalle persiane. Si prende cura di te e di me. Siamo tutti una canzone, io una strofa, tu un ritornello. Insieme funzioniamo meglio e me lo voglio ricordare. Scapperà da ogni balcone e va a giocare in un cortile. Lanciamola come un pallone e canterà sopra ogni tetto. Siamo lo stadio in un cassetto. Allora, lo stadio in un cassetto è una canzone interpretata da un gruppo di 21 cantanti famosissimi. Ve li posso dire? Vi dico i nomi? Alessandro Bastoni, Barbara Bonansea, Federico Bonazzoli, Francesco Caputo, Gaetano Castrovilli, Alberto Cerri, Danilo D'Ambrosio, Matteo Darmian, Stefano Eranio, Samuele Tò, Ciro Ferrara, Alessandro Florenzi, Maurizio Gans, Simone Andrea Gans, Elena Linari, Alessandro Matri, Leonardo Morosini, Andrea Pirlo, Andrea Ranocchia, Luca Toni, Nicola Ventola. Allenatore Roberto Razzini, ciao Roberto! Ciao Marta, buon pomeriggio! Ti piacerebbe allenare questi cantanti? Non sarei all'altezza. Roberto Razzini, amico di Radio 24, mio collaboratore per il nostro Come nasce una canzone, che tornerà appena potremo incontrare gli autori fisicamente, ed è anche Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, che ha avuto questa idea. Io ho detto 21 cantanti famosissimi, però dai nomi avete capito che non sono proprio tutti cantanti famosissimi, anzi non di primo mestiere, diciamo così. Sì, diciamo che sono 21 personaggi sicuramente molto famosi nel loro settore, che si sono prestati alla musica con grande simpatia, grande disponibilità e con tantissimo entusiasmo. Allora, Roberto, noi abbiamo già raccontato in radio qual è il tuo mestiere. Ti occupi di edizioni musicali, quindi tra le tante cose che fai, sotto il naso, anzi nelle orecchie, ti capitano delle canzoni nuove. Gli autori di Warner Chappell ti portano delle canzoni, in particolare qui in questo caso due autrici che noi amiamo molto, che sono Giulia Anania e Marta Venturini, e poi è arrivato anche Diego Calvetti, ti hanno portato questa canzone e tu cosa hai detto? Allora, diciamo che questa canzone mi è arrivata, come in quel periodo di lockdown eravamo abituati a fare, sul telefonino, perché purtroppo i contatti personali erano e lo sono tuttora azzerati, quindi mi hanno mandato questa canzone, io l'ho ascoltata e devo dire che immediatamente mi si è acceso non una lampadina ma un percorso, perché ascoltando questa canzone mi sono subito immaginato il progetto che poi, grazie alla collaborazione di questi grandi campioni, siamo riusciti a realizzare, ovvero far cantare questo brano, per le sue caratteristiche di testo, di stesura musicale, a dei campioni di calcio, perché ritenevo e ho ritenuto in quel momento, quando ascoltavo questa canzone per la prima volta, che questa canzone potesse mettere in contatto, in comunicazione, due mondi che sono stati molto colpiti, lo sono tuttora, dal Covid-19, perché entrambi i mondi, calcio e musica, vivono del contatto col pubblico, contatto che è stato vietato per ovviamente il lockdown. Allora, io non me ne intendo tantissimo di calcio, non lo seguo con grande assiduità, però un po' di voci me ne intendo e secondo me lui è proprio bravo e forse un futuro della musica può anche averlo. Benvenuto a Radio Tube a Nicola Ventola, ciao Nicola! Buon pomeriggio a tutti. Senti, ciao Roberto. Ma sei bravo! Ciao Nicola! Nicola, bravissimo! Ti ringrazio, però è la passione che ho sempre avuto da bambino, in ogni squadra che ho cambiato, tra Atalanta, Inter, Bari, Sombarese, Pugliese, ho sempre acquistato questa pianola con delle basi e ogni volta che andavamo nei ritiri si cantava per drammatizzare un po' la tensione calcistica prepartita, e quindi mi sono sempre dilettato e mi fa star bene, la musica mi fa star bene. Bello, bello, no, ma si vede anche che lo fai con passione. Andate a vedervi il video perché è proprio molto carino. Cosa hai detto quando ti è arrivata questa proposta, Nicola? Innanzitutto mi sono innamorato del progetto, che ha scopo benevolo, quindi far del bene in questo momento, ero contento. Poi la canzone è bellissima, mi sono innamorato anche della canzone, come testo, come melodia. Non era facilissima e ho capito mille miei ex compagni di squadra che potevano andare in difficoltà, però mi ha preso il progetto, ho cercato di aiutare il più possibile e ho capito che molte volte la mia voce andava un po' in giro tra i miei ex colleghi per convincerli a non essere timidi, perché molti chiaramente potevano andare in difficoltà col canto, invece tutti sono stati sensibili, sono stati bravi. Ed è venuta fuori una bellissima canzone. E anche un video molto divertente, perché vi siete messi in gioco nel vostro stare in casa, perché ovviamente in casa abbiamo passato gran parte del tempo e tuttora stiamo spesso in casa. Roberto, ci racconti qual è lo scopo benefico e com'è nato questo aspetto del progetto? Guarda, noi abbiamo deciso fin da subito di destinare i proventi dei diritto d'autore e dei diritti fonografici che matureranno per questo brano, per tutte le utilizzazioni, per uno scopo benefico che avesse anche, come dire, una visione prospettica e che andasse al di là dell'emergenza che stavamo e stiamo vivendo. Quindi abbiamo aderito a questo fondo istituito dalla Protezione Civile, denominato Sempre con Voi, che è un fondo che raccoglie risorse da destinare alle famiglie dei medici e del personale sanitario che è caduto nella lotta al Covid-19. Io credo che questa iniziativa sia molto bella e importante, perché è proprio proiettata, diciamo così, nel medio termine, nel futuro. Non è solo un problema di emergenza, è un problema anche di dare continuità all'aiuto a queste famiglie, di questi medici e di tutto il personale sanitario che in questo periodo di emergenza ha dato tanto a tutti noi, ed è giusto che noi nel nostro piccolo si possa restituire una parte di ciò che è stato dato a noi. E questo è giusto e bello. Roberto, poco fa hai detto due mondi, quello della musica e poi in generale quello dello spettacolo e quello del calcio, che si sono fermati ma che con la loro ripresa, seppure in maniera un po' diversa, danno il senso di un paese che può ripartire. Intanto lo chiedo a Nicola, questa ripresa del campionato ci dà un po' il senso, anche se in maniera un po' diversa, che le cose forse stanno anche un po' per ricominciare? Sì, sì, sì, adesso ci sono delle date precise, si comincerà, mancava a tutti, come la musica, anche il calcio, quindi ci sarà di nuovo la passione che si riaccende, un motore importante anche economico che si riaccenderà e quindi anche se gli stadi saranno a porte chiuse sarà piacevolissimo rivedere, giocare il campionato e anche speriamo al più presto nella musica. Che si possa riandare ai concerti, perché sarebbe bello per tutti, che vuol dire riprendersi e riprendere tutto il tempo perduto, non dimenticandoci di tutto quello che è accaduto. Roberto, è così, poco alla volta. Poi per quanto riguarda la musica, anche qui prima i piccoli eventi, poi si ricomincerà, si spera, con gli eventi un po' più grandi, però bisogna ricominciare. Ma dobbiamo ricominciare, perché non possiamo assolutamente fermarci, soprattutto perché noi della musica ci occupiamo di un bene che io personalmente considero primario per il benessere psicofisico di tutti noi. La musica dà sollievo, dà emozione, dà piacere e credo che sia bello poterne fruire tutti quanti insieme. Quindi poter tornare quanto prima ai grandi eventi. Si dovrà fare tutto per gradi, bisognerà fare tutto con grandissima attenzione, avere memoria di quello che abbiamo vissuto in queste ultime settimane, però bisogna assolutamente rialzarsi e riprendere il nostro cammino con determinazione. Roberto, tu sei un grandissimo esperto di musica, occupandotene da tutta la vita, un grande esperto di calcio, lievemente tifoso, ma proprio così, un pochino tifoso, non diciamo di che squadra, ma è una delle due di Milano e non ha il rosso nella maglia, possiamo dire esatto, così. Però non diciamo la squadra. No, però non diciamo la squadra. Però io voglio sapere se secondo te, e qui mi baso proprio sulla tua competenza in fatto di musica, se Nicola Ventola ha un futuro come cantante. Allora, adesso attribuirgli un futuro come cantante bisognerebbe prima chiederlo a lui se vuole intraprendere questa carriera. Devo dire che noi siamo partiti col botto, perché Nicola in effetti è stato il primo campione con il quale siamo entrati in contatto e ci ha aperto una speranza infinita di buon esito dell'operazione, perché come dicevi tu, ma Nicola effettivamente ha fatto una performance decisamente interessante e quindi ci ha messo nella condizione di partire con convinzione su questo progetto, perché abbiamo detto qui abbiamo dei campioni e dei calciatori che sanno cantare e Nicola ci ha spianato la strada sotto ogni punto di vista. Quindi Nicola, secondo me questo è un buon punto di partenza, poi vedi tu, non lo so, cosa ne dici, ci proviamo? No, mi fa piacere le parole di Roberto e c'è tanto da lavorare come in tutte le cose. Ma prima che scoppiasse la pandemia avevo già individuato un coach perché ripeto è passione, volevo migliorarmi e mi fa star bene anche prendere delle lezioni, non sarebbe un impegno, sarebbe un piacere per me per capire le tecniche del canto, della respirazione, quindi era una cosa che avevo messo in preventivo in questo momento che nella mia vita ho anche più tempo. Straordinario, vabbè, il fiato ce l'ha Nicola, quindi il resto adesso ci vorrà solo l'impostazione. Roberto? No, volevo aggiungere solo che chi segue Nicola sui social vede e può apprezzare le sue performance sulle storie di Instagram, quindi noi, almeno io personalmente, poi lui è stato un bomber della mia squadra del cuore, quindi... Però, voglio dire, ero molto tranquillo sul fatto che lui potesse esprimersi al meglio anche in questo settore, perché appunto lo seguo anche sui social e quindi siamo lì. Chi non lo conosce sotto questo aspetto può approfondire e può verificare e toccare con mano le sue qualità e la sua caratteristica Bene, cantante. Allora, Nicola Ventola, segui. Ok, adesso ti ascolto, mi raccomando, esibisciti sui social, su Instagram, perché voglio le stories. Grazie Roberto Razzini, grazie a Nicola Ventola. Fatemi ricordare Campioni a distanza, allo stadio in un cassetto, la canzone che è stata scritta da Giulia Nania, Marta Venturini e Diego Calvetti. Gli introiti saranno interamente devoluti al fondo Sempre con voi della Protezione Civile, per il sostegno ai familiari dei medici e del personale sanitario che hanno perso la vita nella lotta al Covid-19. Un progetto prezioso. Grazie a Roberto Razzini. Ciao Roberto. Grazie Marta, un caro saluto a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie. E un saluto anche a Nicola Ventola. Ti seguo, mi raccomando. Nicola canta. A presto Nicola, ciao. Ciao, grazie. Noi diamo la linea alla viabilità e poi saremo ancora insieme per un altro progetto da tenere d'occhio proprio oggi. RadioTube Social Village. Ci sono stati tantissimi progetti di solidarietà e per me è stato difficile sceglierne solo alcuni, perché mi sembrava un po' ingiusto dedicare spazio a progetti di solidarietà più o meno grandi, più o meno, però alcuni sono davvero tanto importanti. Abbiamo scelto questo campione in un cassetto e ci siamo anche divertiti a parlare con Roberto Razzini, che ha avuto l'idea, ma anche con Nicola Ventola. Avete sentito la passione e l'entusiasmo? Secondo me è una carriera che deve cominciare a valutare. Intanto lo seguiremo su Instagram e lo terremo d'occhio. Ma oggi c'è un'edizione molto importante di un appuntamento teatrale e televisivo che abbiamo amato tantissimo e che amiamo tantissimo da tanti anni, Zelig. Oggi, sabato 30 maggio, a partire dalle 18 e fino a notte fonda su natlive.it e sulla pagina Facebook di Zelig, c'è Zelig Covid Edition. Vogliamo sapere cos'è e ne parliamo con il creatore, il patron, il padre nobile di Zelig, Giancarlo Bozzo. Buonasera Giancarlo. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie per tutta questa. D'altronde, poi gli addetti ai lavori, quando Giancarlo Bozzo, uno si sistema anche un po' sulla sedia, perché sappiamo che ruolo ha nella comicità, nella scelta dei personaggi, che poi sono diventati un po' anche il nostro modo di ridere in tutti questi anni. Però questa volta si ride. E anche per una ragione molto importante. Anche a te, Giancarlo, chiedo come è nata questa idea. Ma in realtà mi è venuta questa idea e ho cercato subito, prima di tutto, Claudio Bisio, che ovviamente è un po' il simbolo di questo nostro mondo anche televisivo. E una volta avuta la sua disponibilità, che era fondamentale per me, ho fatto girare questa richiesta di pensare a una raccolta fondi per tutti i lavoratori dello spettacolo, che poi sono, come sappiamo, non soltanto magari gli attori e le attrici meno conosciuti che hanno grandi difficoltà, ma anche i tecnici, i fonici, gli elettricisti, tutti quelli che sono coinvolti nello spettacolo dal vivo e che in questo momento non hanno un lavoro perché non c'è questo spettacolo dal vivo, non è possibile farlo. E quindi l'intenzione era quella proprio di accendere un po' una luce su questo mondo che fino a pochissimo tempo fa non è stato molto tracciato anche dal governo, diciamo, ma che ultimamente sembra che abbia preso un po' in mano anche da questo punto di vista le strategie per farlo ricominciare a vivere. E niente, ho avuto moltissime risposte positive, entusiastiche, quindi questa cosa che poteva avere magari una piccola difficoltà, che comunque è complicata perché non è uno spettacolo dal vivo, ma è fatto in rete, eccetera, però è nata e adesso con tanta fatica, perché 400 persone che hanno aderito non sono poche, diciamo, Però siamo per partire tra poche ore, tra due ore, meno di due ore, cominciamo. Beh, è pazzesco, perché io ho letto la lista dei comici di Zelig che ci saranno. Faccio prima dire tutti. Fatemi citare che c'è Leonardo, il nostro Leonardo Manera, che vestirà i panni con un nuovo personaggio creato per l'occasione del virologo narcisista. E quindi Leonardo Manera lo aspettiamo. Posso dire, in realtà la cosa meravigliosa è che ci sono, certo, quasi tutti i comici di Zelig, ma tanti comici che a Zelig magari non sono passati e che comunque sono, insomma, sono molto solidari, ci tengono, è un momento di unità tra tante anime, anche se vogliamo. Posso dire che c'è anche un po' di trade union tra Zelig, che è il palco degli ultimi lustri della comicità italiana, e il Derby, che noi guardiamo qui dalle finestre della sede del Sole 24 Ore, perché Roberto Brivio, Ricky Gianco, quindi sì. c'è anche, ci sono anche proprio anche qui i padri del cabaret. Sì, ma infatti, guarda, è una cosa davvero molto, per me è molto emozionante, perché questa volta riusciamo davvero a fare una cosa con tantissimi artisti, che è una cosa fondamentale. Se volete vi spiego anche un minimo la struttura di quello, certo, che succede, certo, oggi, certo. Perché noi faremo una brevissima diretta alle 18 con Claudio e Vanessa e penso col ministro Franceschini, che sarà presente per sostenerci, in video, certo. Poi dopo questa breve diretta, per lanciare, diciamo, questo evento, ci saranno 3 ore di video che ci hanno mandato tantissimi comici e che saranno un piacere per gli occhi e per le nostre risate, con nomi importantissimi, da Antonio Rezza a Alessandro Pergonzoni, Anna Maria Barbera, Angela Finocchiaro, insomma, nomi importantissimi e anche qualcuno sconosciuto. Alle 21 cominciamo questa nostra diretta vera e propria con Claudio, Vanessa e tu hai letto i nomi, sai, si tratta di 35, credo, comici importantissimi che saranno con noi per divertirci sostanzialmente. Alla fine di questa serata in diretta continuerà la messa in onda dei contributi filmati, che sono più di 400, e quindi penso che arriveremo davvero a domani mattina. Pazzesco! E poi, sì, tutta la settimana continueremo a raccogliere video che possono mandare a noi, insomma, e questi video saranno pubblicati ancora sulla piattaforma. E poi sabato faremo la replica di tutto quello che abbiamo fatto oggi, aggiungendo tutti i contenuti che ci sono arrivati durante la settimana, e chiuderemo questa raccolta fondi sperando di raccogliere quello che è possibile. Insomma, capiamo benissimo che è un momento difficile per tutti, quindi non è che chiediamo alla gente di svenarsi, figuriamoci, però noi ci proviamo, insomma, per dare una mano. Poi la cosa importante credo che sia davvero parlare di questo mondo, dello spettacolo dal vivo soprattutto, e con il ministero, con il quale sembra che abbiamo cominciato un rapporto, riuscire a continuare a parlarne. Giusto, giusto, anche perché immagino che anche attorno allo Zelig, inteso anche come teatro, siano tantissime le professionalità coinvolte, quindi è giusto sottolinearlo ancora. Voglio ripetere che tutto questo si troverà su natlive.it, sulla pagina Facebook di Zelig, dove trovate anche tutte le coordinate per la raccolta fondi di Zelig COVID Edition. Io devo ringraziare tantissimo e fare i complimenti per questa idea a Giancarlo Bozzo. Grazie Giancarlo, grazie per essere stato con noi. Cosa, sì, se è possibile, certo, velocissima. Credo che si potrà vedere si vede sicuramente su Facebook di Zelig, ma molti artisti ci hanno chiesto di condividerlo, quindi su moltissime altre pagine di Facebook si vedrà questa cosa. Ci sarà sempre in sovraimpressione dalle 18 fino a domani mattina IBAN per donare, quindi grazie a voi per averci dato spazio, e grazie, e un sorriso per tutti. Grazie, io voglio guardarmela tutta, fino a proprio ridere fino a domani mattina, ne ho bisogno. Grazie a Giancarlo Bozzo, a presto e buon lavoro davvero. Grazie, arrivederci. Grazie Giancarlo. Una brevissima pausa, giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme con la seconda ora di RadioTube.